Capitolo 3. Fra cielo e mare. Parlare. Che devo dire? Rugge il mare. Oggi i popoli parlano, le moltitudini urlano con voci megafoniche. Padroni del futuro redenti dalla grande libertà, della fame e del bisogno. Quelli che un tempo erano anonimi come l'erba sul ciglio della strada, sono ora anonimi e spietati come il ruggito dell'oceano. Nell'affermazione del loro potere di classe, teso alla distruzione dell'ordine antico. Rugge il mare. Perché dovrei alzare la mia piccola voce disperata? Io che sto in precario equilibrio tra la terra instabile e l'acqua sconcertante, rifiutandole entrambe. Il vento del mare respinge le mie parole. Le asiatiche, come me, appartenenti a un ristretto ceto superiore, sono euroasiatiche intellettuali cresciute fra due mondi. Da un punto di vista razziale, l'euroasianesimo è una cosa senza importanza, un piccolo trascurabile pregiudizio tenuto in vita agli avamposti dell'impero, dove costituisce un argomento di malsano interesse e di maligno pettegolezzo per le donne bianche, annoiate da innumerevoli ore al tavolo da bridge. È una mania offensiva, ma innocua. Se alcuni euroasiatici si sentono inferiori ed esprimono il loro risentimento verso i bianchi, lamentandosi di non godere degli stessi diritti, è perché scimmiottano il modo di vivere dei bianchi e le loro ingiustizie, invece di scoppiare in una risata di fronte alla comica e pomposa ciarlataneria che è la vita dei bianchi in Oriente. Non esiste problema per gli euroasiatici che accettano il loro sangue asiatico. Ma l'euroasianesimo intellettuale che affligge molti giovani asiatici non ha nulla a che fare con la razza. Sentimentalmente attaccati alla nostra terra dal suono e calore della fanciullezza, dall'ambiente che ha fatto da sfondo ai nostri primi sentimenti di adulti, noi, giovani asiatici, veniamo mandati alle università missionarie e da lì a Cambridge o a Columbia, a Parigi o a Ginevra, per essere modernizzati e occidentalizzati, dai giardini ben coltivati dell'Europa e dell'America, da quella vita ordinata e libera da ogni necessità di corruzione, da quell'ambiente in cui l'intelletto è affascinato dalla discussione e stimolato dall'ingegnosità, torniamo in patria. Ritorniamo al nostro mondo di fame, di indicibile bisogno, di sfacciata corruzione e di sfrontata ingiustizia, di mendicanti e di ulcere orrende, dalle accademiche astrazioni dell'Occidente alla miseria assoluta dell'Oriente. All'estero siamo studenti privilegiati, dotati di borse di studio e resi interessanti dal fittizio splendore delle antiche culture. Ritorniamo nelle colonie per essere messi al nostro posto. Ritorniamo a casa per adattarci come meglio possiamo a un livello inferiore di vita. Ma nel frattempo ci siamo disabituati alla sporcizia e il vedere la gente sputare ci fa schifo. Soffriamo nel sentire i cattivi odori, le mosche ci ripugnano, siamo ormai avvezzi alla pulizia dei gabinetti igienici occidentali, mentre il contadino, nostro fratello, affonda fino al ginocchio nel concime umano. Piccole cose, certo, ma che scavano un profondo abisso fra noi e la nostra gente. Così la nostra anima si divide in due strati. Sotto le emozioni profonde, i tabù e le coercizioni, le ripugnanze e gli attaccamenti inspiegabili e oscuri, sopra un eccesso di parole volubili, teorie che perdono ogni significato di fronte al bisogno infinito. Idee intellettualmente accettate ed emotivamente impotenti, comportamento razionale che improvvisamente viene dimenticato allorché il mare comincia a mugghiare. Scissione. Nel nostro lavoro siamo repliche efficienti degli scienziati e dei dotti dell'Occidente, ma nella vita privata tendiamo a tenere all'oscuro i nostri amori e le nostre amicizie, coviamo silenziosamente l'odio nel nostro intimo, ci costruiamo una casa buia e sicura per il fanciullo non cresciuto che è in noi, un mondo libero da inframmettenze, un rifugio dall'intelletto scrutatore del nostro soggiorno occidentale. Così, affrontando questioni diverse Esibiamo caratteri diversi. Siamo capaci di improvvisi voltafaccia, di bruschi contrasti nel nostro modo di pensare e di ragionare senza nemmeno rendercene conto. Spesso siamo sconcertati dal significato delle parole che usiamo, non trovando nessun concetto collaterale atto a esprimere in un linguaggio quello che ci appare chiaro nell'altro. Subiamo reazioni emotive assolutamente contrarie alle nostre convinzioni ragionate e attribuiamo un valore diverso alla stessa parola, a seconda della situazione. Schizofrenici abituali, divisi dentro di noi, risentiamo tale stato di cose. È un risentimento che può degenerare in ostilità, che può spingerci a odiare quello che abbiamo amato. Sentiamo che altri ci hanno mentito perché la nostra vita è una menzogna interiore perpetua. Siamo oberati di memorie storiche che il nostro orgoglio tradizionale, mostruoso e arrogante, l'orgoglio della classe dotta cinese, mantiene vivo e rigoglioso. E persino la gratitudine per la filantropia di cui abbiamo goduto porta in sé questi semi di amarezza e di risentimento. È in Asia che abbiamo visto disfarsi il mondo occidentale, quel mondo che ammiriamo per la sua ingegnosità tecnica e che al tempo stesso odiamo senza saperne il perché. È qui che lo abbiamo visto decadere per propria mano, con le sue promesse non mantenute, la sua generosità interessata, le sue assurdità ridondanti, la sua riluttanza a lasciare la presa, la sua filantropia parsimoniosa. Di tutto il male compiuto in passato, noi in Asia godiamo i frutti, acerbi e maturi. E quando giunse l'ordine nuovo, con la benevolenza e le splendide bandiere, con l'unità e le parole commoventi, con la coerenza e l'amor patrio, dando uno scopo alla vita, rendendo la morte trascurabile, abbagliando logico la canzone del glorioso domani, noi fummo costretti a scegliere. Non è facile strapparsi i pezzi della propria carne. Qualunque fossero le colpe dell'Occidente, molti di noi l'avevano amato per il dono ricevuto di quella delicata realtà, fragile e di difficile uso, mite e forte al tempo stesso, che si chiama libertà spirituale. E sebbene anche in Occidente questa libertà spirituale stesse rapidamente dissolvendosi sotto la frenetica spinta della paura, pure era là che noi l'avevamo conosciuta. Non è facile scegliere fra due modi mentali, ma ahimè, per molti di noi uno di essi era diventato elusivo. Il valore di nobili propositi veniva distrutto dall'immoralità dei fatti e parole astratte come libertà e democrazia perdevano il loro significato per colpa di quello che veniva fatto in loro nome. Erano parole troppo sbandierate e che troppo spesso servivano a mantenere in vita antiche ingiustizie. Nella nostra mente era ormai nato il sospetto, un sospetto che doveva crescere fino a farci imparare a sospettare di tutto e di tutti. E molti, fra i migliori, fra i più onesti degli intellettuali cinesi occidentalizzati, fecero la loro scelta sacrificando la libertà individuale, personale, a un'individualità ben più grande, anche se ciò significava adattarsi a un controllo e a una disciplina che ripugnavano a una parte della loro personalità. Scelsero quello che avrebbe potuto sopraffarli, non per viltà o opportunismo, bensì perché possedevano una coscienza sociale, amavano la loro gente e sentivano una profonda necessità di essere nuovamente integri e validi al servizio di un paese che aveva tanto bisogno di loro. Scelsero loro malgrado, rinunciando alla piccola libertà singola che appariva tanto insignificante di fronte alla sfida spirituale del comunismo in una terra nella quale la libertà dalla fame non era mai stata conosciuta. Rinunciarono a una differenza che li aveva resi stranieri fra la loro gente, in cambio di un'oppressione che avrebbe liberato le loro energie per il bene dell'umanità. E l'influenza missionaria cristiana, tanto forte in molti intellettuali ritornati dall'estero, non fece che aiutarli a raggiungere tale abnegazione con maggior facilità. Non ci avevano forse insegnato che la dedizione al prossimo costituisce lo scopo della vita? Imbevuti di cristianesimo sociale e di un ideale di giustizia sociale, come potevamo mantenerci fedeli a un credo di libertà personale? Un credo che era improvvisamente diventato peccato di egoismo e che ci faceva rifiutare di dedicarci ai nostri simili. Non era forse il sacrificio di se stessi perfezione cristiana? Molti non poterono resistere alla sfida dell'eroismo spirituale, a quel profondo e appassionato impulso che trascende gli stretti confini della vita individuale e che li spingeva a lavorare con l'essere umano, per l'essere umano, alla più meravigliosa delle realizzazioni, quella del regno di un'umanità sulla terra. Il nostro ardente nazionalismo, pietra basilare dell'ordine nuovo, ovunque, in Asia, pungolato e irritato dal contatto con l'Occidente, portava molti di noi a scegliere non un credo politico, bensì la nostra patria, la Cina. Questo è quanto deve essere detto. Nonostante il mugghiare del mare, nonostante lo sconvolgimento della terra, è una semplice verità che non piacerà a nessuno e che tutti condanneranno. Ma deve ugualmente essere detta, poiché verrà il giorno in cui coloro che scelsero loro malgrado potranno soffrire della propria abnegazione, della totale, fervida e appassionata dedizione di loro stessi. Vedranno forse le loro parole svisate, la loro devozione avvilita, le loro migliori intenzioni volte a scopi che non avevano immaginato, ma ora che sembra così giusto esaltare come eroi ed eroine coloro che fuggono dalla persecuzione della libertà e che una sola parola a favore di coloro che alla libertà hanno rinunciato viene considerata ingiusta, sento il dovere di dire questa parola. Essi sono rimasti per servire il popolo, poiché la loro fede trascende il credo politico. Le guerre e la bramosia del potere non hanno unito le loro voci al piccolo coro indignato di coloro che contaminano la parola libertà con la speranza di una terza guerra mondiale che ristabilisca un ordine morto da molto tempo. Hanno voluto essere nuovamente integri, dedicarsi interamente alla loro gente. Alcuni di essi erano i migliori e i più onesti di noi e ora sono in Cina. Il problema che avevo creduto soltanto mio, questione di scelta e di decisione personale, era invece anche quello di molti altri cinesi, di molti altri asiatici occidentalizzati, cresciuti fra due mondi divisi e contrastanti. E la scelta, con la sua crudele dissezione, la sua tormentosa sofferenza, la sua tragica indecisione, situazione amletica che soltanto un brutale colpo di bisturi poteva risolvere, era uguale per tutti. Nella piccola città, in Cina, e più tardi, durante la giovane e tenera primavera di Hong Kong, mentre i miei due mondi si allontanavano sempre più l'uno dall'altro, con disperata rapidità e irrevocabile determinazione, compresi che avrei scelto fra Mark e la Cina. Mark non sarebbe mai venuto a vivere e a lavorare nella nuova Cina. Avrebbe forse tentato se, cosa assai difficile, gli avessero permesso di andarci, ma sarebbe stato sospettato, seguito, censurato e alla fine avrebbe dovuto andarsene, deluso e avvilito, come molti europei a Hong Kong, che non potevano concepire la vita senza la Cina e che la Cina aveva scacciati. Senza Mark avrei forse potuto adattarmi alla nuova concezione di vita, anche se non sarei mai giunta a comprendere l'odio e le passioni politiche. Ci sarei forse riuscita stringendo i denti, volgendo deliberatamente la schiena a tante cose che avevo amato, ritornando ai suoni e agli odori della mia fanciullezza e ai miei amici per confortarmi della perdita di metà di me stessa. Con Mark Avrei dovuto andarmene, strappando quelle lunghe e profonde radici per seguirlo e servirlo. Sarei stata abbastanza generosa da accettare il mio sacrificio senza essere sleale nei suoi riguardi, nel mio intimo profondamente cinese? Col mio amore avrei potuto distruggerlo, poiché in fondo non era questione di amore fra due persone che si amavano, non era Mark come uomo e come amante a interporsi fra me e la Cina, bensì quello che egli rappresentava e significava, il mondo che egli era. Ora sapevo perché. 2 mesi prima, nella mia stanza all'ospedale, avevo detto: Mark, se tu fossi libero di sposarmi subito, esiterei. C'è in me qualcosa che desidera, non so, forse la Cina, non capisco bene. Come molti altri, eravamo stati presi nell'ingranaggio di eventi più grandi di noi che distorcevano la nostra vita intima. Mi sentivo squarciata dalla testa ai piedi. Il sangue misto non aveva importanza, la razza non costituiva una barriera, l'educazione era un legame che ci univa, ma mi era impossibile ignorare la divisione spirituale mia e di tutti coloro che soffrivano con me. Una parte di me non avrebbe mai appartenuto a Mark e l'altra parte di me non sarebbe mai più ritornata in Cina. Per questo continuavo ad andare avanti e indietro con lo spirito e col corpo da Hong Kong alla Cina, da Mark alla Cina. E ora stavo ritornando a Hong Kong. Hong Kong, escrescenza della costa cinese, splendido luogo di commercio e di spaventoso anacronismo sociale, isola dei monopoli, dove la miseria è un reato passibile di punizione e dove i campi di profughi spuntano ovunque. Hong Kong, in bilico fra la terra e il mare, dipendente dalla Cina per la sua nascita e per l'esistenza delle sue sontuose imprese capitalistiche. Hong Kong, rifugio di molti che, come me, attendevano che la polvere si posasse per prendere una decisione, per scegliere. Soltanto a Hong Kong era ancora possibile sedersi in attesa di scegliere. Soltanto a Hong Kong Mark ed io potevamo ancora amarci e per breve tempo sognare. Soltanto a Hong Kong esisteva il nostro amore. Non vi era altro tempo né altro luogo per noi, in nessuna parte del mondo. Hong Kong, piccolo rifugio, stretto interstizio fra due stelle fisse, roccia effimera sulla quale potrò sedermi per qualche settimana, per qualche mese, forse per un tempo sufficiente da trovare una via d'uscita, sufficiente perché Mark non debba soffrire, poiché qualunque sia la strada che sceglierò, ho paura di distruggerlo. Hong Kong, isola di ladri, grandi e piccoli, dove avrei rubato alla vita un po' di dolcezza prima di essere sopraffatta. Le ero immensamente grata. Così, tra mare e terra, levai la mia piccola voce di sfida contro il mugghiare del mare, contro l'ululante vento di terra. E non ero sola, perché molti stavano dietro di me in silenzio, ed io udivo il battito dei loro cuori ancora incerti. Ritornai a Hong Kong, in treno. Con ogni ora che passava, la consapevolezza di Mark cresceva in me fino a soffocare ogni altra cosa, fino a che fui di nuovo presa dall'incanto sua in ogni goccia del mio sangue, e Hong Kong, senza Mark, fu nuovamente un mondo pieno di lui. Ritornai alla mia passione antica e nuova, ai miei cavilli, alla mia condanna e a un telegramma di Mark. Un telegramma. Odiavo i telegrammi. Non avevo il coraggio di aprirlo. Lo palpai a lungo, voltandolo e spiegazzandolo. 2 ore di sordida agonia prima di decidermi a strappare la busta e di leggere quello che Mark mi diceva. Ho smesso di rosicchiarmi le unghie.